Margarita da due case o del perfetto amore. Dalla postfazione dell'autrice. Esistono numerose storie di sante le cui vite si intersecano l'una nell'altra in agiografie indistricabili. Le Margarite che la Biblioteca Sanctorum annovera tra le sante sono 19. Ad una di loro ho dedicato decenni di studio e ricerche. Che importa oggi qual era? Molte di più sono state sicuramente quelle bruciate nei numerosi processi dai cui verbali questo nome, Margarita, risulta uno dei più frequenti, e ciascuna di loro, a modo suo, coltivò la passione di essere o santa o strega, o entrambe le cose assieme, oppure nessuna delle due. E chissà quante volte fu loro riconosciuto quello che non desideravano e quante altre in loro fu visto quello che non era. Nel ridente borgo di due case, situato nella Val Pelagia, terra di aironi più che di cristiani, sospesa su quelle nuvole d'erba che sono le barene della laguna, esposte al vento del nord, nacquero, nel giorno della Candelora di un anno che sta tra il XIII e il XIV secolo della nostra era, due bimbe di nome Margarita. L'una era figlia della mugnaia del paese, che discendeva da una stirpe di donne di montagna. L'altra di un pescatore di due case, valligiano, d'acqua, dedito a gettar reti come tutti coloro che l'avevano preceduto. A dispetto di una comune e neanche tanto distante parentela, le due famiglie non si parlavano per una di quelle dispute di interesse, la diversa valutazione di una misura di farro e di una cesta di pesce, che rendono astiosi gli umili per generazioni, anche quando se n'è dimenticato il motivo. E fu così che memoria di una comune trisavola, donna devota ai culti delle acque, guaritrice di prestigiosa memoria e tenuta quasi in conto di santa, ancorché finita bruciata già ai suoi tempi, entrambe le famiglie battezzarono la propria bimba con il nome che significa perla e che si tramanda di madre in figlia per buon auspicio della polvere ricavata dalla secrezione del mollusco, la quale si riteneva avere proprietà antiemorragiche favorevoli al momento del parto. «Margarita», disse la mugnaia, «come la madre della madre della madre di mia madre». «Come la madre del padre di mio padre», disse il pescatore. Le piccole crebbero. Non si usava a quei tempi andare a scuola, le femmine soprattutto. Di modo che, quando Margherita, figlia della mugnaia, imparò da sua madre, che teneva i conti di casa, a tracciare le lettere del proprio nome, era l'unica bimba del paese a saper scrivere e lo vergò, bello in grande, con una punta di carbone, sui muri di casa. Ma ben presto anche l'altra imparò a ricopiare quei segni misteriosi, ciascuno dei quali corrispondeva ad una lettera del proprio nome, e diceva «Questo è il mio nome!» e l'altra diceva «No, è il mio!» La tensione tra le due animò non poche sere d'estate nel piccolo borgo, quando i ragazzini andavano facendosi uomini e con un complimento aizzavano la rivalità, facendo pendere la bilancia ora verso una Margherita, ora verso l'altra, tanto più che entrambe coltivavano la stranezza della scrittura ed erano di non indifferente bellezza. E quando erano cresciuti, facendosi giudici delle grazie e del comportamento delle due fanciulle, nell'ozio dei momenti liberi si incrudelivano a coltivare zizzania. Così le due crebbero ostili l'una all'altra, soffrendo e ignorandosi a vicenda in un borgo di poche case dove tutto era noto a tutti. Al pozzo comune e a tutte le famiglie si tirava sull'acqua a muso duro. Poi, un giorno, la figlia della mugnaia avvertì un tremendo mal di petto e vomitò sangue. La sera, quando lo seppe, l'altra Margarita sentì in cuor suo crescere una speranza, che il Signore fosse così clemente da liberarla da quell'ingombro, quel doppio di sé che le copiava la vita, impedendole di essere l'unica, originale e assoluta Margarita da due case. E la sorte, si può dire, la esaudì. Ben presto, su consiglio e invito di una comare che abitava ai laghi delle Fate, la giovane malata di mal di petto si apprestò a partire per raggiungere i boschi di Lagole, nei cui pressi si sapevano esistere sorgenti miracolose. Il giorno della partenza, Margherita, dal mal di petto, indossava un vestito bianco di trine fatto apposta per l'occasione coi ricavi del macinato di settembre. Issata su un carro del sale, diretto in montagna, pareva un Madonnino in processione. Passando davanti alla casa della rivale, si accarezzava la vestina aggiustando nelle pieghe. Così radiosa, dall'alto del carro, lanciò all'altra che stava sulla porta della propria abitazione uno sguardo di superiorità. Il carro procedette con lei che a mento alto ninnava al passo dei cavalli il proprio esile collo di cigno. E mentre Margherita dal mal di petto si allontanava sul calesse lungo il sentiero che si snodava nel verde dei campi del borgo di Due Case, la Margherita che restava in paese sentì crescere dentro di sé un'immensa rabbia, neanche andandosene la rivale dismetteva di provocarla con la sua boria. Nel degenerare del sentimento dell'invidia, le augurò di affogare in un mare di sangue nero, come la pece, ed ebbe la visione del vestito immacolato della piccola rivale che si inabissava nella corrente tra vortici di acque dense e scure. Poi, chiesto perdono a Dio per quei pensieri malevoli, la dimenticò facilmente, posto che, finalmente, era rimasta l'unica Margherita del borgo di Due Case. Margherita, che era partita quel giorno sul carro, tornò dopo qualche anno. Si era fatta donna e a Due Case arrivò in carrozza. L'aveva fatta accompagnare fin lì il padre del suo giovane e ricco innamorato, un veneziano figlio di mercanti che aveva conosciuto nel suo soggiorno di salute. Il buon cibo e le attenzioni di cui era stata oggetto, oltre ad alcuni riti eseguiti dalla comare che la ospitava, dei quali nessuno seppe e di cui la ragazza non trattenne memoria cosciente, l'avevano rinforzata e, assieme alle forze della crescita, sulle quali sempre può contare un organismo giovane, le avevano restituito la salute. Mettendo un piedino fasciato in stretta calzatura avanti l'altro, come una bambola che ci si ingegni di far camminare, scese dalla carrozza. Nell'assistere a quel ritorno, la Margherita che era rimasta sentì una stretta al cuore, misurando la larghezza dei propri piedi rimasti liberi a correre sui ciottoli e sull'erba. Tuttavia, dopo qualche giorno, Margherita, che era scesa dalla carrozza come bambola, ritrovò il senso della libertà dimenticata, riassaporò il gusto del vento tra l'erba alta e andava correndo a destra e a manca recuperando i giochi non giocati in tutto quel tempo. Restava però in attesa che il suo innamorato le scrivesse, come le aveva promesso, per venirla a prendere e condurla definitivamente a sposa, ma ciò non avvenne. Margherita, rimasta in paese, infatti, aveva intercettato la prima lettera dell'innamorato. «Siete voi, Margherita, da Due Case?» «Certo», aveva risposto Margherita al postale, alzando gli occhi dal raccogliere castagne ai bordi della strada. E aveva intascato la missiva, non senza aver ricompensato il buon uomo con parte del raccolto che le pesava nel grembiale. E alle parole focose dell'amante sconosciuto aveva risposto con modestia di vergine, rimandando il giorno dell'incontro perché, gli rispondeva, voleva essere ben certa che la loro affinità fosse più di un fuoco di paglia in estate, voleva essere certa che potesse resistere come brace in una lunga notte d'inverno. E intanto Margherita, che attendeva invano la lettera dell'innamorato, siccome non aveva notizie, si ritrasse, avvilita, in un silenzioso dolore dal quale non c'era verso di distrarla. In quel tempo andava spesso a inginocchiarsi presso un piccolo oratorio dedicato allo Spirito Santo, poco fuori dal paese, vigilato da un giovane piovano, figura discreta di custode di quell'eremo semplice ed essenziale, risonante di silenzio. Si diceva che il buon uomo vi ricevesse i malati per operare guarigioni, in barba alle disposizioni che i preti non si dovessero immischiare delle faccende del corpo, poiché era arte dei cerusici quando non erano barbieri, norcini o ambulanti. Ma Roma era distante e i suoi veti tardavano ad arrivare nelle terre lontane, Così il piovano distribuiva ancora battesimi salvifici ed estreme unzioni che risvegliavano i moribondi, ritenendo che lo Spirito Santo fosse così lungimirante da non disprezzare i corpi nei quali le anime si incarnano. Presso l'oratorio la giovane si rifugiava appena poteva, di giorno e a volte anche la notte, finché le parve di vedere la colomba bianca dello Spirito Santo staccarsi dal soffitto dove era stata dipinta e scenderle nel petto a frullare dell'amore che è la ricompensa dei semplici. Da quel momento Margarita, figlia della mugnaia, seppe di sapere. Sapeva dell'amore onnisciente che tutto pervade, delle lietissime anime e dell'assoluto bene. Da parte sua, il piovano capì che presto o tardi i frutti di quell'amore non si sarebbero potuti nascondere e pensò che il borgo di due case era troppo piccolo per contenerlo tutto. Pertanto si dispose a partire, ma non da solo. Spiegata la situazione ed ottenuta la benedizione della madre, senza dire niente a nessun altro, Margherita, figlia della mugnaia, lasciò il paese in mistica unione con il suo officiante per andare a predicare l'amore per fiere e mercati. Non passò molto tempo che il corrispondente della Margherita, che aveva intercettato la lettera di infiammato amore a lei non destinata, si presentò a due case per convincere l'amata al matrimonio e grande fu la sua sorpresa quando si trovò davanti un'altra. Seppe così che per tutto quel tempo non aveva corrisposto con lei che credeva. Margherita, che era rimasta, gli spiegò allora che la destinataria delle missive si era da tempo allontanata dal paese in compagnia del piovano e che lei, spiacendole deludere un giovane tanto innamorato, aveva proseguito la corrispondenza in attesa del ritorno dell'altra. Ma il giovane, infuocato com'era e pronto ad avere una donna, disse che ormai di quelle parole e di quel fuoco di scrittura si era innamorato e la pregò di sposarlo. Su consiglio di uno zio prete, che da Venezia veniva in Val Pelagia all'ingrasso dei parenti a respirare l'aria buona del borgo di due case, il padre della giovane fu convinto della convenienza della cosa. Così anche Margarita del Pescatore se ne andò da due case e concluse un bel matrimonio che si celebrò con gran fasto nella capitale, nella chiesa della Santissima Trinità. Quel luogo santo nel quale spirava e tutt'oggi spira il soffio divino, la mondò da ogni stortura dell'anima ed ella si dispose felicemente ad essere madre secondo la più consolidata ufficialità. La gente del borgo, che aveva visto sparire nello stesso periodo Margarita, figlia della mugnaia, e il piovano dell'oratorio, entrambi come dissolti nel nulla, la prima, senza che la famiglia ne desse spiegazione, e il secondo, abbandonando il suo magro gregge di omani, convenne che, come si suol dire, 2 più 2 fa 4. Le voci da incuriosite si fecero maligne, ma dovettero passare diversi mesi prima che gli abitanti di due case ne facessero comunicazione al vescovo. Sicuramente prima aspettarono che passasse luglio, epoca delle riscossioni ecclesiastiche sui raccolti che quell'anno furono abbonate perché mancava chi le ricevesse, seppur furono caricate l'anno successivo. A riscuoterle fu inviato un prelato di tutt'altri gusti e tutt'altre convinzioni, che impartiva l'estrema unzione con l'entusiasmo di un carceriere trentino, portando finalmente il sacramento nel solco di un civile commiato. E, seppur non fosse uno stinco di santo, si guardò bene dal dar scandalo come il suo predecessore, e questo era l'importante. Margarita e il piovano furono poi visti a certe fiere su un carro tirato da una cavalla bianca che aveva al traino due capre, un maschio e una femmina, e a volte capretti, e un nugolo di bambini che non si sapeva se fossero loro. Raccoglievano infatti anche piccoli che le madri non potevano tenere, ed era una festa per i buoni di cuore vedere arrivare il carro di quei figli di Dio. Il piovano allestiva sul retro un altare e impartiva l'Eucarestia agli astanti. Finita la celebrazione, Margherita si metteva a dispensare unguenti. Fioriva attorno al carro, con tante bocche da sfamare, un commercio di acque sante, erbe miracolose e maghessi, della cui prodigiosità gli astanti ascoltavano a bocca aperta testimonianza, e il buon cuore con cui venivano offerti a volte faceva miracoli. Se non che questi ultimi erano dovuti anche alla sensibilità innata in Margherita verso le piante benefiche che si era affinata nel soggiorno in montagna. Mesceva con arte le piante mediche nelle giuste proporzioni e a quest'arte si andava aggiungendo l'esperienza. La fama dell'efficacia di quei rimedi si sparse nelle valli, dai piedi dei monti alle rovine dell'antica Altinum, in faccia alla laguna, e insieme anche la voce che Margherita avesse cominciato nel frattempo a tener prediche e dispensar sacramenti. Con il tempo, nella regione si seppe di una donna che compiva miracoli in virtù dello Spirito Santo, una donna che parlava così bene di Dio e del suo infinito amore che quando arrivava nei paesi le chiese si spopolavano e ognuno le portava da benedire quello che aveva di più caro. La santa parlava soprattutto alle donne e alcune di queste, non contenendo l'entusiasmo, presero a seguire il carro. Margherita, infatti, si era fatta fama di sapere indirizzare le anime all'amore divino e si rivolgeva al suo pubblico con parole vibranti che facevano tacere in ascolto anche i folli del paese. Pareva loro che attraverso quella bocca Dio stesso parlasse. Quando il carro partiva, i folli parevano rinsaviti e i savi facevano discorsi folli, e tutto ciò cominciò a preoccupare chi di dovere, ma ancora limitatamente perché un certo margine di superstizione era tollerato. Un giorno Margherita, figlia del pescatore che aveva lasciato due case per sposare il giovane della lettera, fu svegliata di soprassalto dalla serva nella sua casa di Venezia, una dimora padronale affacciata su orti di proprietà, con il canale che entrava a pian terreno, dove le barche portavano ogni ben di Dio. Dopo il bel matrimonio, nulla le era mancato, ma la mancanza di figli si avvertiva. Vuoi per il silenzio strano in una casa di sposi, ancora giovani, vuoi per l'impazienza del marito che appariva seccato e distante, fatto del quale una moglie che ha figli non ha tempo di accorgersi. Così, quando la donna venne a strattonarla per condurla dove, diceva, si facevano prodigi, Margherita del pescatore infilò svelta uno scialle e la seguì. In barca raggiunsero le secche di Sant'Ilario, approdando sulla spiaggia alle foci della Brenta, dove era radunata tanta gente. Con la serva che le faceva strada, Margherita giunse al centro di quel raduno. Vicino al carro dei prodigi, una donna che sulle prime non riconobbe, ma da subito le sembrò di conoscere, girava ad occhi chiusi saggiando con le mani le fattezze del volto della gente. E la vide così luminosa e circondata d'amore che, riconosciuta la compaesana sua omonima, Margherita risentì al cuore la fitta dell'invidia, ancor più quando attorno al carro vide la nidiata di piccoli. Invero, qualcuno era certamente figlio di quella donna fortunata, ma quale non si sarebbe potuto dire, perché quei mociosi erano uno più bello dell'altro. Trasfigurata e immersa nelle proprie visioni, Margherita dello Spirito Santo non riconobbe l'antica rivale. E giunto il suo turno, Margherita, di fronte a Margherita, a occhi socchiusi, le impose le mani sul ventre, augurandole che vi scendesse lo Spirito Santo. «Quello che tu cerchi, le disse, avrai entro la fine dell'anno, non ti dare pena, il divino ci ascolta». Poi si allontanò tra la gente che le si inginocchiava davanti e piangendole sulle mani la ringraziava delle grazie ricevute. Margherita, nel sentirsi toccare dall'antica rivale, era rimasta atterrita, pure, non da meno, aveva sentito il calore di quelle mani e una grande pace le era scesa dentro. Il carro era appena partito dalla gronda lagunare che Margherita, nella sua casa veneziana, avvertì tutti i sintomi della pregnanza e si mise a letto in preda alla gioia e alla confusione. Dopo 9 mesi, Margherita, che non aveva avuto figli, mise al mondo una creatura che tutti sapevano essere frutto di prodigio. La presenza dei viandanti, intanto, cominciava ad essere meno tollerata. Gente che viveva nei territori senza corrispondere contributi ad alcuno e sottraeva entrate a Madre Chiesa. Oltrepassate le acque verdi della Brenta, Il carro, con il suo seguito di bestie e fanciulli, fu raggiunto dalle guardie vescovili, le quali intimarono, con sufficiente violenza, di cessare pratiche che distraevano i fedeli dai loro compiti. A suon di botte fecero ragionare il piovano, minacciando ulteriori forme di convincimento e di togliere loro i piccoli, per i quali, dissero, piuttosto che restare in pericolo di perdersi l'anima, era meglio essere venduti al mercato degli schiavi. Margherita allora promise con tutta se stessa che in futuro non avrebbe mai più dato pubblico scandalo e questo mantenne. Dopo tanto girovagare e far del bene, la comunità dello Spirito Santo si ritirò nell'Alta Val d'Adige, in una caverna un tempo abitata dagli eremiti, a ridosso di una rupe, e lì piantò la croce. Memori delle minacce ricevute, Margherita e il suo compagno vi crebbero i ragazzi e le ragazze che erano con loro, costruendo tutti assieme una cappella a ridosso della rupe. Il sacro luogo fu allestito con ogni cura ed arricchito nel tempo di statue che gli artigiani dei luoghi più diversi inviavano ad abbellimento. Ben presto, in quella sede, affluirono genti da ogni dove. La comunità ricevette ben presto una visita di controllo, nel corso della quale furono stabilite le decime da corrispondere e tutto fu fatto in accordo con le disposizioni del vescovo. L'ospizio di nuova fondazione, in quel frenetico mutar di geografie religiose, aveva ottenuto riconoscimento ufficiale. Margherita dello Spirito Santo prese a scrivere delle proprie visioni divine che, con la giusta consulenza del piovano, restavano nell'ambito di una perfetta ortodossia. Per prudenza, le pratiche di guarigione erano state ufficialmente sospese in vantaggio di un più sicuro votarsi al culto delle reliquie ospitate nei preziosi tabernacoli offerti dalle corporazioni. Tutto questo rifulgere era il volto di una nuova cristianità alla ricerca di qualcosa di stabile a dispetto delle guerre in corso, vicino e lontano. Né più Margherita imponeva le mani, poiché alle sante questo non era consentito. Piuttosto induceva a pregare chi cercava il miracolo e insegnava a non opporsi alla sorte per non coltivare in sé il malanimo, ma ad accettare il volere di Dio. I suoi scritti ebbero diffusione nei conventi ed erano tradotti anche fuori confine. Si era intanto sparsa la voce che Margherita del bel matrimonio a Venezia avesse dato al mondo una creatura bellissima per sola opera di magia e non c'era verso di contrastare la diceria, come il veleno di certi rettili che entra nel sangue e non esiste antidoto. La madre e la piccola ricevettero ben presto la visita di due prelati. Margherita li fece entrare nella camera dove riposava la bimba e, su loro richiesta, alzò il telo che ricopriva la culla, mostrando orgogliosa il corpicino minuto e dormiente e guance rosate di assoluta bellezza sulle quali il sole che entrava nella camera dipingeva una luminosa lanugine. Mai i due santi uomini avevano visto bimba più bella. Ripresisi dallo stupore che la beltà innocente infonde a volte in chi non ha dimestichezza con l'infanzia, si rivolsero alla madre con parole severe. «Dicono che voi in realtà abbiate partorito una capra», così si rivolsero alla donna senza tema di ridicolo, «e che poi abbiate sostituito il parto mostruoso con una creatura del demonio. Forse la stessa capra è stata trasformata da Satana in una bella bambina». Rise di cuore Margherita, ma subito dopo dovette preparare i bagagli per seguirli. In quel periodo erano richieste informative dettagliate sulle pratiche di superstizione ed era cura di quei santi padri raccogliere notizie su ogni presunto prodigio, isolato il quale ogni clamore veniva a tacere. Margherita fu portata in una torre di terraferma e lì restò, rinchiusa per giorni in attesa di essere interrogata, la bimba con sé. A nulla valsero le suppliche e le richieste d'aiuto che l'imprigionata rivolse al marito. Al ricco giovane, ormai disamorato, non fu difficile dimostrare di essere stato raggirato e ben presto fu libero di convolare a nuove nozze. Anzi, la famiglia di lui si adoperò perché la donna fosse quanto più possibile allontanata da Venezia, cosa che avvenne in quanto la Serenissima non amava risolvere in piazza quello che può essere risolto con discrezione altrimenti. Madre e figlia furono confinate in un lontano lazzaretto, in realtà un campo di lavoro allestito con convenzione specifica nel bresciano luogo di espiazione. Quanti nella storia mille ce ne furono e non lasciarono traccia. Poiché ogni stato ha il suo sistema di smaltire quella che ritiene l'immondizia del palazzo. Venezia non voleva dare ulteriori appigli alla Chiesa di attaccare la Repubblica, né dar modo a coloro che esercitano pietà nei salotti di estrinsecare la propria umanità, facendola diventare motivo di dissenso. Così, per magnanimità della Serenissima, in quel luogo venivano costrette, per motivi diversi, donne che altrove sarebbero finite tranquillamente a rogo. È figlia del perfetto amore, della trascendenza, della stessa essenza di cui tutti noi siamo fatti, insisteva ai suoi carcerieri Margherita, mostrando il frutto del suo parto prodigioso. Ma gli inquisitori, che visitavano la prigione con la scusa di occuparsi delle anime e il compito di controllare i singoli casi, facendosene giudici senza diritto, sapevano bene di non dover ascoltare nessuna di coloro che vi erano rinchiuse. L'arditezza di quanto Margherita andava sciorinando, che poggiava su un sincero convincimento e sarebbe stata di un'innocenza ovvia in altri contesti, costituiva aggravante al suo stato. Tuttavia, la presenza della piccola, che ancora allattava, le riservò, per certi versi, un trattamento di riguardo. La crebbe con l'aiuto delle altre recluse. Intervennero quando la piccola fu presa dai vermi, altre la assistettero con ogni cura quando Margherita stessa versò qualche tempo tra la vita e la morte per il rigore delle condizioni di vita. Da alcune compagne di prigionia, Margherita apprese che esistono parole così forti che, se pronunciate, fanno allontanare le malattie, e altre che, entro certi limiti, fanno avverare i desideri. Erbe attorcigliate che possono far schiattare un uomo nel pieno del vigore, e altre che tolgono il desiderio di violenza, e altre che inducono il desiderio. Seppure nessuna era riuscita fino a quel momento ad aprire con le magherie le porte del carcere. La bimba era per tutte una gioia ed ognuna si ingegnava di divertirla e farla crescere serena. Margherita poi assistette molte di loro dimenticate da Dio e dagli uomini fino all'ultimo atto di esistenze consumate tra quelle mura, senza neppure una condanna da lasciare a memoria. Nell'andarsene, quelle donne istruite a tramandare il proprio sapere glielo trasfusero e così Margherita, dal parto prodigioso, divenne depositaria della conoscenza estrema delle opere meno consentite. Intanto la sua piccola aveva 3 anni e tanto era l'amore che le era stato dato che già parlava e cantava e danzava come ne avesse 15. La notizia di questo ulteriore prodigio giunse all'orecchio del doge, che dal suo palazzo, nel tira e molla tra regnanti celesti e regnanti terreni, volle barattare il destino di Margherita e della sua bimba in cambio della concessione alla Chiesa a costruire un nuovo convento ai margini della laguna, dove il dogado andava espandendosi. Non fu curiosità o capriccio, ma una gotta che nessun medico o alchimista riusciva a curare, che consigliò alla massima autorità veneziana di liberare quella singolare coppia di maghe nella speranza di trovar guarigione. Madre e figlia furono trasferite al palazzo dogale, ma a patto che non si facessero riconoscere e restassero sempre vestite alla maniera delle turche, con il volto coperto da un velo leggero, dietro al quale Margherita sorrideva, convinta di avere infine trovato, dopo tante prove, il nodo esatto dell'esatto arbusto da sciogliere con la formula esatta per ottenere l'agognata libertà. Costretto d'imperio il doge a 40 giorni di digiuno ad acqua e arenghe affumicate, l'inaspettato successo di quella dieta inventata lì per lì le guadagnò una discreta posizione a corte. Ancora colpita dai miracoli che ora era certa di aver vissuto in prima persona, dal parto prodigioso a quella libertà ragionevolmente insperata, Margherita cominciò a investigarne il senso, studiando i testi magici custoditi nelle biblioteche dei veneziani d'alto rango. Alla maggior parte di loro inutili, in quanto pochi di loro avevano conoscenza dei nomi e delle cose indicate in quelle pagine, e quelli che le conoscevano non avevano bisogno dei libri. Grazie all'apprendistato seguito presso l'Accademia delle Sfortunate Recluse, lei ne indovinava il senso, e numerosi furono i testi che, mentre la figlia giocava con le nutrici, ricopiò arricchendoli di proprio pugno di annotazioni e traduzioni pratiche. Approfondì anche quella branchia di sapere ostetrico che nelle antiche scienze è impregnata di veggenza e magia e che, invisa alla Chiesa, suscitava interesse e passione nei veneziani, come ogni genere di invenzione proveniente da fuori, come quel binocolo che tanto tempo dopo rese famoso Galileo, venuto a Venezia per farsi carico di consegnare all'umanità il segreto delle stelle, fino a quel momento rimasto nella piccola cerchia degli eletti. Tanto si spese Margherita in quell'interesse, con buona ricaduta sull'umore del doge, che alla fine l'economo fu incaricato di farle dono di alcune tenute e di un palazzo, gestito allora da fedelissimi della Repubblica, proprio al confine con le terre del papato. Un simile avamposto non suscitava alcuna bramosia nei patrizi veneziani, i quali troppo avrebbero dovuto investire per difenderle. Con i ricavati delle tenute, Margherita, figlia del pescatore, acquisiva invece sempre nuovi e più completi manoscritti. E dai regni vicini venivano di nascosto regine e dame che non avevano figli, e quelle che non avevano amante, e quelle che volevano riconquistare il proprio marito. A parlare d'amore con la turca, che aveva ovunque nomea di maga, tal che la politica estera della Serenissima trasse gran beneficio dalle cose positive che le donne possono fare per la pace quando sono in buona relazione tra di loro, pur essendo di appartenenze paterne di paesi diversi. Ma in città, dove anche i muri hanno orecchie, lo si sapeva. La turca altri non era che Margherita da due case della Val Pelagia, dotata di grandissimi poteri magici per discendenza da un'ava lontana. In quegli anni, nella valle dove l'Adige scende verde e possente, Margherita dello Spirito Santo lavorava a testi di altissima teologia, sfiorando con abilità i terreni della metafisica senza mai confliggere con i sacri dogmi. Le sue opere erano giunte nelle mani del Papa, il quale vi ravvisò un ingegno non comune e la capacità di abbracciare nell'opera della Chiesa tutte le ansie che quell'epoca tormentata non riusciva a soddisfare. Annunciò, quindi, che aveva intenzione di intestarle, per la sopravvivenza della comunità, alcuni poderi ed un convento che si trovava proprio al confine con la Repubblica di Venezia, nella certezza che l'influenza della Santa Donna avrebbe aiutato a garantire la fedeltà di quelle terre. Il pontefice, con la prudenza che contraddistingue il papato, voleva sincerarsi di persona delle qualità speciali della donna di cui tanto si parlava, prima di accreditarne in via eccezionale gli studi teologici, convinto com'era che bisognava verificare qualunque cosa accadesse fino nelle province più remote, e tanto più quando si parlava di santità, e ad ancor maggior ragione in quanto si trattava di una donna. Pertanto Margherita un giorno lasciò l'eremo da sola, diretta a Roma, su espresso invito del Papa, e fu inteso che avrebbe incontrato le guardie papali nelle terre promesse. La pia donna viaggiava inebriata dai larghi spazi delle colline e delle campagne che andava attraversando, e intanto compitava tra sé le parole migliori per meglio apparirgli donna di fede e procurare alla propria comunità la tutela di cui aveva bisogno. Caso volle che nello stesso tempo Margherita la maga fosse presa dal desiderio di visitare i poderi che il dogato le aveva assegnato, con il motivo di vedere se potevano esservi coltivate erbe che non crescevano ai bordi della laguna e con l'intento in fondo di sistemarvisi da castellana. Ricevuto il permesso di allontanarsi da Venezia, si mise anch'ella in viaggio, di messa ed in incognito, in modo da passare inosservata. Oltrepassata la torre di Mestre, dove riconobbe esser stata tempo prima brevemente prigioniera, si avviò verso la zona di confine che era la sua destinazione. Dopo qualche giorno di cammino, fu fermata da un drappello di guardie papali. «Siete voi, Margherita da Due Case?» «Sì», rispose la donna, allibita che la conoscessero nonostante il volto che teneva avvolto in uno scialle. «Vi siamo venuti incontro per volere del sommo pontefice. Dovete seguirci». A quel volere Margherita non poté disobbedire. Una volta che fu davanti al Papa, ad usa e costumi di corte, Margherita la maga lo lasciò parlare. E quello fu grandemente impressionato dalla sua modestia. Il Santo Padre, infatti, non poteva soffrire le mistiche che si sdilinguivano in estasi convulse e non la finivano mai di parlare. Insomma, Margherita gli fece subito una buona impressione, tanto che avviò la procedura più spedita per diffonderne con bolla papale le opere e il nome, e le intestò le terre e il convento, aggiungendo di suo alcuni tesori tratti dalla Terra Santa e destinati all'eremo. Margherita del Pescatore, ben sapendo che tanta grazia non era a lei destinata, per salvarsi assecondò il volere del fato e con quel che aveva ricevuto tornò verso il nord, ripromettendosi di restituire quanto prima il tutto alla vera beneficiaria, spiegando l'equivoco. Colei che il Papa aveva chiamato a Roma, intanto, ancora attendeva le guardie papali nelle terre promesse. Qualcosa nel suo animo, durante quel viaggio, le si era risvegliato dentro. Ricordò la dolcezza del dare e ritrovò se stessa. In virtù dello stato di grazia che la solitudine del viaggiare instilla nelle anime evocate, quando non distratte dagli impegni del mondo si trovano nella felice opportunità di parlare con Dio, lo Spirito Santo le si annunciò nuovamente a dirle che doveva tornare ad operare rivolgendosi alla gente. Così Margherita dello Spirito Santo si fermò in una piazza e ricominciò a predicare nel modo consueto e trascinante dell'immanenza divina. Le sue parole, però, con la nuova formazione che si era costruita, suonavano tutte favorevoli al regno di Dio in terra, che ha radici nell'amore infinito, e tanto convincente era che, sebbene lei mai si espose a parlare di politica, dai paesi vicini arrivavano, passandosi voce, sempre più genti propense a resistere in nome del Papa. La cosa non sfuggì agli attenti osservatori veneziani, distribuiti in ogni dove e massimamente in quelle terre di confine. Grande fu lo stupore del doge quando seppe trattarsi di Margherita da Due Case e credette senza ombra di dubbio che fosse la maga da lui stesso salvata dal carcere e ospitata a corte, la quale ora si rivelava invece una spia papale. Sulla sua testa, pertanto, pose un bando e una taglia. Il bando del doge arrivò in ogni contrada e Margherita, che il Papa voleva far santa, fu creduta Margherita la maga e arrestata oltre confine dagli sgherri del doge mentre benediceva un raccolto. Già a quei tempi, infatti, gli ordini dei potenti venivano scagliati come frecce cieche, a volte conficcandosi nell'umido terreno della selva, altre colpendo inutilmente bersagli innocenti e talora, per puro caso, trafiggendo la preda, quale che fosse. Margherita la maga, ignara del bando dogale, di ritorno dalla visita al Papa stava per raggiungere le terre che il doge le aveva assegnato. Ma nel frattempo, partita che era da Roma, il Papa aveva ricevuto dai confessori veneziani alcune ricette odorose di curcuma e melissa, dense di invocazioni alle deità pagane che governano l'amore, proprio da lei redatte alla corte del doge. Il sommo pontefice si era reso conto che dietro quella che gli era apparsa modestia, in quella che egli stava promuovendo a santa, covava la mente diabolica di un'eretica che lo aveva ingannato. Le guardie papali raggiunsero Margherita alle porte del palazzo di confine che il doge le aveva destinato e, senza che la potesse porvi piede, l'arrestarono e trascinarono via. Ora, passato un po' di tempo, un notabile che si occupava delle transazioni tra Chiesa e Stato si accorse che nelle galere in dotazione del Papa e in quelle nel potere del Doge due diverse donne rispondevano al nome di Margherita da Due Case. Allora le raggiunse e chiese loro: Siete voi Margarita da due case? Ed entrambe risposero sì. Allora l'onest'uomo proseguì il suo lavoro e le risultanze furono che ci si avvide di come, mentre nelle campagne veniva posta in discussione l'autorità del Papa, a corte si tramassero malefizi contro il doge. Erano venuti i tempi che religiosi e sovrani cominciavano ad accorgersi di quanto le guerre tra loro alimentassero le fazioni dei rispettivi oppositori, facinorosi delle campagne affamate dalla battaglia e cospiratori nelle città agitate dal lucro dei commerci. E tra i rivoltosi, da una parte e dall'altra, in gran parte in prima fila erano le donne. I moti andavano stroncati sul nascere affinché i focolai non travolgessero il nuovo ordine che andava difficoltosamente profilandosi. Già da tempo le procedure previste fino ad allora contro le pagane e i profeti disobbedienti, per stregoneria o dissenso, si erano estese a colpire chiunque per i motivi più vari si intestardiva, fossero disagiati, zingari, ebrei o quant'altro di difforme dalla vera fede, a non capire come girava il vento del momento. Ma quelle procedure repressive non erano che convulsioni occasionali della storia, a confronto con la nascente rete di controllo incrociato che nulla lasciava al caso. Nello scambio di favori accadeva che le condanne della Santa Inquisizione venissero facilitate, a volte, dagli stati in cui le istruttorie si erano svolte, fecondando esperimenti di felice e reciproca fraterna collaborazione. Per Margarita da due case fu decisa, senza appello e senza tanto sottilizzare, la condanna a rogo. Ma nella gran difficoltà di districare le vicende delle due Margarite che si avevano agli atti e le accuse di cui erano oggetto e le loro personali storie, si convenne di bruciarle entrambe. Il che avvenne. Fu concordato per opportunità geografica nella piazza di Trento, davanti al gran rosone della bontà divina, dove nel tempo del bruciar di una fascina si spensero l'una accanto all'altra. Al paese di due case, invece, giunse contemporaneamente notizia che Margarita era divenuta santa, ma era stata ingravidata dal demonio, e che divenuta maga era stata fatta santa. Poi l'incertezza dell'accaduto e il timore di impicciarsi fecero dimenticare il terribile esito finale di quella storia lontana. I beni confiscati di equivoca appartenenza furono adoperati per incrementare l'eremo fondato da Margarita dello Spirito Santo, che divenne in breve il convento più ricco di tutte le terre d'Adige. Vi trovò ricovero anche la piccola nata per prodigio da Margarita la maga. Alla corte del doge, la bimba aveva trascorso un'infanzia imbaloccata e della madre sapeva essere partita per un viaggio in terre lontane. Ma quando crebbe e venne a sapere per sommi capi quel che era avvenuto, fu impossibile trattenerla. Viaggiò a lungo per ricostruire le vicende che la riguardavano, e giunta all'eremo vi si stabilì, accolta dai suoi fratelli e sorelle in spirito, finché, ancor giovane, ne divenne badessa. Ricordando quel che era accaduto alle donne che l'avevano preceduta, vigilò con grande accortezza e rettitudine sul convento che le era toccato e su quelli che fece edificare nelle valli vicine, svolgendo grandi opere di carità all'interno e fuori. Con le rendite pagava le decime, sempre riuscendo, novella Matilde di Canossa, ad accantonare il bastevole per la popolazione della quale era responsabile. Grazie al tempo del quale le badesse, in virtù dell'incarico loro conferito, possono disporre con una certa libertà, non mancò inoltre di dedicarsi allo studio dei manoscritti che trovò nella caverna che ancora oggi si cela dietro l'eremo, e che custodisce anche quegli altri che dal palazzo Dogale le dame di corte le fecero pervenire in memoria della sua madre naturale. Ebbe così modo di ricomporre dentro di sé un universo mistico e di far tesoro del sapere contenuto in quelle carte che con grafie diverse le sue madri, il cui ricordo lei stessa non sempre riusciva a distinguere del tutto, le avevano trasmesso. In loro onore fece il possibile per trasmettere la massima letizia, e le valli, finché lei fu badessa, godettero di grandi feste popolari, e prime tra queste la Candelora, contentando nel contempo quanti perseguono l'espiazione e quanti cercano la luce. Anche la badessa aveva un suo proprio nome, ma questo, è certo, le riuscì fin dall'inizio, come raccomandano le opere di magia, di non farlo conoscere a nessuno, celandolo sotto ad uno qualunque. Da qualche ora le fiamme si erano spente sui roghi e con gli ultimi fili di fumo si erano consumate le vicende terrene di Margherita da Due Case. Dalle ceneri che si confusero tra loro mentre venivano rimosse, si levò l'ultima polvere che fu dispersa nel vento. Le anime che le avevano abitate furono libere di andare. Margherita e Margherita si guardarono attorno, sospese in uno spazio infinito che riverberava dei loro pensieri, e in quell'assoluto la loro anima, confusa, faceva i primi passi fondendosi nelle sfere ardenti della beatitudine. Allora Margherita la Santa, figlia della Mugnaia, fondatrice dell'eremo consacrato e gran teologa, prese la mano dell'altra e le disse dolcemente: «Sai, adesso ho capito. Io sono Dio». E Margherita la Maga, figlia del pescatore, madre della badessa e insigne traduttrice, prendendole l'altra mano, le rispose con un sorriso: «Anch'io». Da allora Margherita da Due Case viaggia con il vento che dalla Val d'Adige scende ad accarezzare le canne alte della Val Pelagia, spargendosi su Venezia e su quelle che furono le sue terre e i suoi mari, e per ogni dove. Se ancora oggi si fa la domanda: «Sei tu Margherita da Due Case?», la risposta del vento, se la si vuole intendere, è sempre sì. Antonella Barina ed Evana dedicano questa audiolettura a Margherita Porete.